sono immerso nei tuoi sorrisi. Chiedo ancora perché adesso non c'è aria come l'aria, manchi questa notte che non sei qua. Questa notte che non sei qua. Immerso nei tuoi sorrisi, chiedo ancora perché adesso non c'è aria come l'aria, manchi questa notte che non sei qua. Manchi questa notte che non sei qua.